Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Le ultime minacce ai magistrati calabresi, le più recenti inchieste milanesi sulle infiltrazioni. Dalla punta alla testa dello stivale, viaggio nell'andrangheta, le sue regole, i suoi silenzi, le sue prime crepe. Raggio Calabria, un bazooka per il procuratore capo e poi, due settimane prima, un'altra minaccia ancora, arrivata con un'informativa riservata e anonima. Magistrati e non solo nel mirino delle cosche calabresi. Ci sono il procuratore capo Pignatone, il suo vice Prestipino, ma anche i PM siciliani Lari, Gozzo e Marino, e c'è pure il giudice campano Cantone nell'elenco dei bersagli di una sfilza di attentati organizzati, stando al documento, in un summit tra famiglie palermitane, uomini della Locride e un napoletano. Insomma, rappresentanti di mafia, 'ndrangheta e camorra insieme per un obiettivo comune. Ma già altre inchieste avevano rivelato rapporti trasversali, ricorda Michele Prestipino, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, arrivato dall'altra parte dello stretto insieme al suo capo Pignatone, dopo aver arrestato tra l'altro a Palermo Bernardo Provenzano. Partiamo da qui, in questa intervista che ripercorre gli ultimi mesi di minacce, tocca i rapporti tra cosche e apparati, apre anche il capitolo Nuovi Pentiti. Le indagini di questi anni hanno messo in luce diverse volte l'esistenza di contatti, di rapporti tra le diverse organizzazioni criminali che operano nel meridione d'Italia, contatti tra elementi 'ndranghetisti e per esempio mafiosi di Cosa Nostra. Sono stati registrati numerose indagini anche negli ultimi 2-3 anni. Nel corso di una ben nota intercettazione telefonica, un mafioso calabrese che istruiva un altro mafioso calabrese su cosa avrebbe dovuto dire a un personaggio politico al quale poi doveva presentarsi per perorare la causa di un detenuto, gli suggeriva di ricordare a questo personaggio che chi parlava rappresentava la Calabria, ma rappresentava anche la Sicilia. Questo mafioso diceva all'altro mafioso: ecco, digli, noi siamo la Calabria e la Sicilia, siamo autorizzati. Una frase che sta a significare la consapevolezza che esiste quantomeno un circuito tra componenti delle due diverse organizzazioni. Ricordo per esempio che durante l'estate di 2 anni fa sul lungomare di Siderno, sulla spiaggia di Siderno, fu registrata la presenza di un importante latitante di Cosa Nostra, della famiglia mafiosa di Brancaccio. Questo apre degli scenari che forse fino adesso non erano stati così noti. C'è una prevalenza per interessi di tipo economico, cioè che cos'è che porta a comunicare di più? Noi abbiamo acquisito elementi di prova su canali comunicativi, su rapporti tra pezzi, componenti delle organizzazioni, molto probabilmente finalizzati alla conclusione di singoli affari. Da questo a dire che ci sono dei rapporti di tipo stabile, ecco, questo è tutta un'altra questione. Quindi bisogna ancora vedere se c'è, diciamo, una strategia comune delle cosche, o piuttosto mi sembra di capire interessi convergenti su singoli fatti. Lei, a proposito invece del ripetersi delle minacce, pensa che dietro questi vari intimidazioni, l'ultima è stato il ritrovamento del bazooka, ci siano risposte a fatti precisi, specifici, o è un insieme della vostra attività investigativa che porta i clan a rispondere in questo modo? Non vi è dubbio che da gennaio si è verificato un progressivo incremento di atti intimidatori che hanno riguardato non soltanto strutture giudiziarie, magistrati, ma hanno riguardato anche numerosi giornalisti nei cui confronti si sono verificati veri e propri episodi e atti di gravissime intimidazioni. Giornalisti appartenenti a testate locali. Che ovviamente si occupassero di cronaca giudiziaria. Sì, abbiamo che si occupavano di raccontato cronaca. Anche noi il fatto che ci siano tantissimi colleghi calabresi che con veramente grande fatica e coraggio portano avanti il loro mestiere. Quello che credo impressioni sia stata la progressione con cui questi atti di intimidazione si sono verificati, il numero anche dei giornalisti delle diverse testate. Noi abbiamo sempre lamentato sulla vicenda calabrese l'esistenza di un cono d'ombra, di un silenzio informativo. Coloro che hanno rotto questo silenzio oggi si vedono destinatari di questi gravissimi atti. Ma le intimidazioni hanno fatto seguito anche ad un susseguirsi di inchieste, di arresti, di una intensa attività investigativa vostra, che ha visto anche comparire e mostrare, riprendo alcune sue parole recenti, la pervasività dei boss anche all'interno degli apparati. A cosa si riferiva lei? Ai risultati pubblici, in particolare ad alcune iniziative poco prima dell'estate, subito adesso a settembre, indagini che hanno messo in evidenza come interagissero certi personaggi con elementi di primo piano dell'Andrangheta, personaggi che offrivano i propri servigi ai boss dell'Andrangheta, soprattutto a livello informativo, cioè nel senso di rivelare ai boss l'esistenza di indagini che li riguardavano, ma non solo che riguardavano loro, ma che riguardavano anche altre articolazioni dell'Andrangheta, in modo da attribuire a queste persone uno straordinario potere, un potere di selezione tra chi avvisare e chi non avvisare. Ecco, abbiamo raccontato infatti in questi giorni dell'arresto e di che cosa abbia significato l'arresto di tale Giovanni Zumbo, che appunto è stato accusato anche del ritrovamento di quell'auto piena di armi nel giorno della visita del capo dello Stato a Reggio Calabria. Ma questo, mi sembra di capire, il fatto che l'uomo fosse un informatore anche dei servizi segreti, in qualche modo apre ancora una volta un elemento, diciamo, più ampio, più inquietante per certi versi, ma forse anche più nuovo, o no? Siamo in presenza di un professionista che non ha un rapporto stabile con alcuno degli enti di informazione e che è stato soltanto in passato e non neppure tanto recente in rapporti con alcuni appartenenti a questi enti. Noi abbiamo accertato che questo personaggio ha rivelato delle notizie particolarmente importanti anche nel dettaglio, notizie che in quel momento erano coperte dal segreto investigativo. Il vero nodo della questione è una domanda che noi ci stiamo ponendo, ma alla quale ancora non abbiamo una risposta, è chi è che sta dietro questo professionista, chi è colui il quale ha fornito le informazioni a questo professionista affinché le potesse poi portare, trasmettere al boss della Ionica Pelle. Mi sembrano un po' climi e vicende che si sono già viste a Palermo. Lei è stato tanto a Palermo. È difficile dire se ci sia, come dire, una situazione del simile ad anni precedenti a quelli che hanno visto la reazione dello Stato. Io credo che oggi in Calabria, e in particolare a Reggio Calabria, la presenza dello Stato si faccia sentire, sia forte, pur con tutti i limiti che possiamo immaginare. Quindi mi sembra di capire che lei è anche favorevole all'arrivo in città dell'esercito. Di fronte a un fenomeno complesso, radicato, di fronte alla forza dell'Andrangheta, lo Stato debba reagire con una risposta altrettanto complessa e altrettanto articolata. Un'ultima cosa le chiedo e riguarda un'ultima novità, l'inizio di una collaborazione di due ex boss, di due appartenenti alle cosche. Il procuratore capo Pignatone l'ha ovviamente già definito un fatto positivo. Ecco, anche quell'idea di un'Andrangheta che fino adesso aveva avuto pochissimi pentiti è un'idea che si sta incrinando? C'è un equilibrio che sta saltando? Questo è un segnale di grande importanza. Lo è perché nella storia, diciamo, dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alle mafie, i migliori impianti processuali sono stati sempre quelli che si sono alimentati di diverse fonti di prova. Sono assolutamente indispensabili responsabili anche i collaboratori di giustizia, perché raccontano dall'interno il proprio vissuto, la propria storia criminale, e quindi aiutano a ricomporre il quadro delle organizzazioni mafiose. L'Andrangheta però fino adesso non li aveva avuti. Teme che il fatto che adesso ci siano appunto due collaboratori possa portare ad una guerra tra clan? Non ho elementi per dirlo. Dico che la presenza di due nuovi collaboratori è un segnale, ripeto, importante, e che sicuramente farà preoccupare le cosche, e io mi auguro che altri ne seguiranno, ovviamente. Storielle. Storiacce. In tutti i casi di usura, e questo mi dispiace doverlo dire, le vittime non hanno mai, mai, dico mai, ammesso di essere oggetto di minacce. Anche a fronte di elementi certi, di contenuti intercettazioni, ancora molti negano di essere stati usurati. Dalla punta dello Stivale all'altra estremità, dalla Calabria alla Lombardia, nel cuore della regione più ricca d'Italia, l'Andrangheta può contare su un esercito di almeno 500 uomini, rivelano le ultime indagini, e su un silenzio radicato anche nelle vittime, proprio come avviene nei feudi dei clan. E questo non può essere tollerato perché, scrive il giudice Giuseppe Gennari, non si chiede a nessuno di essere eroi, ma un conto è tacere quando si è sotto scacco, un conto è il distinguo del GIP, perseverare in comportamenti omertosi quando i responsabili sono già in carcere. Una condizione che rende la scelta del silenzio, riflette il giudice, un'intima adesione alle regole dell'associazione mafiosa più che a quelle della collettività. O si è con lo Stato o contro, è il bivio secco indicato da Ilda Boccassini, alla guida della direzione distrettuale antimafia, che ha scoperto l'esistenza di almeno 15 locali in Lombardia, cioè clan di 'Ndrangheta. Eccoli: Bollate, Cormano, Bresso, Limbiate, Milano Centro, Solaro, Pioltello, Mariano Comense, Corsico, Rò, Pavia, Erda, Canzio, Legnano, Desio, Seregno. Qua pagavano tutti il pizzo, cioè tutti, in tanti pagavano il pizzo. Lucrezia Recchiuti è un consigliere PD di Desio ed è una delle anime della fiaccolata di oggi attraverso i paesi locali di 'Ndrangheta. Una fiaccolata contro i clan nel cuore della Brianza, dove i boss, arrivati negli anni Ottanta col Confino, si sono ormai radicati. C'era un capo locale che era appunto Annunziato Moscato. Affiancati a loro però non c'erano solo calabresi. Quello che loro sono riusciti a fare è comunque avere un legame con la politica. Il fratello, Natale Moscato, era stato assessore ai lavori pubblici ad Esio. Il sospetto è che quindi i loro interessi si siano tramutati in un boom di costruzione. Sì. Un boom edilizio che ha portato dietro di sé anche abusi edilizi, oppure no? Ci sono stati diversi abusi edilizi. Hanno costruito tutte le mansarde abusive. Loro non avevano il permesso per costruire le mansarde, invece l'appartamento è stato costruito con mansarda. Quindi un cittadino che ha comprato una casa in queste condizioni non può rivenderla. La cosa che mi ha più spaventata sono state le parole di Ilda Boccassini, quando ha detto che nessuno ha denunciato. Non siamo sull'Aspromonte, ma in Lombardia, che nella mappa dell'Andrangheta è un'istituzione, per dirla col loro codice, una sorta di colonia potente e influente, tanto da riuscire a imporre anche la regola numero uno del silenzio. Silenzio anche da parte di chi subisce, tanto che è qui che è stata arrestata per la prima volta in Italia una vittima di usura omertosa. Il silenzio non può in alcun modo essere giustificato, concorda il presidente di Assolombarda, Alberto Meo Martini, che a noi preannuncia le prossime iniziative per la legalità di Confindustria. Nessuno può avere la presunzione di circoscrivere i fenomeni di malavita organizzata a determinate aree del paese o del mondo, perché sarebbe veramente assurdo pensare che con la facilità con cui si muovono gli affari, i business complessivamente, ci siano territori al sicuro. Primo è da affrontare cercando di contribuire a costruire una cultura della legalità. Riguarda non soltanto i comportamenti di rispetto delle regole, che sono a fondamento della concorrenza, quindi dell'impresa, ma anche quella di costruire un ambiente che espelle quelli che hanno atteggiamenti collusivi. Quindi anche chi subisce senza denunciare partecipa a una diffusione della criminalità organizzata. Io poi ho voluto che Assoambad fosse la prima associazione a recepire ciò che stanno facendo le associazioni del Mezzogiorno d'Italia, cioè a stabilire delle regole. Chi non denuncia, chi ovviamente a maggior ragione è colluso con attività che fanno riferimento alla criminalità, non può far parte di Confindustria delle nostre associazioni. Questo è fuori di dubbio e questo è un messaggio di tipo culturale e diciamo di valore, cioè noi riteniamo inconcepibile che uno che attua comportamenti collusivi o peggio con la criminalità possa far parte di Assolombarda, di Confindustria. Questo è un segnale molto forte che ha dato Emma Marcegaglia, è un segnale che abbiamo recepito e trasformato in una modifica di statuto. Poi abbiamo un atteggiamento in più, secondo me, che è di duplice natura. Noi stiamo per varare, spero che lo faremo entro l'anno prossimo, dei programmi di sensibilizzazione che cercheremo di fare anche con le istituzioni scolastiche, di sensibilizzazione anche dei ragazzi sul tema, per esempio, di un altro tipo di criminalità, che è per esempio quello della contraffazione. È un tema che colpisce già i bambini che vanno a scuola, che magari andando a scuola sono o per i giochi elettronici. E DVD questa... e dintorni. Eh sì. Poi stiamo varando come Confindustria Assolombarda dei programmi per vedere se alcuni beni sequestrati, in particolare parlo di imprese, alla criminalità organizzata, possano essere gestiti da imprenditori. E credo che proprio nelle prossime settimane vareremo un programma di formazione per manager che riguarda questa particolare, diciamo, evenienza. Quindi penso che il fronte delle imprese non possa pensare che il problema sia degli altri. Non può immaginare di affrontarlo quando magari i buoi sono già scappati dalla stalla, e proprio in questo momento in cui la crisi economica ha riportato l'azienda, l'impresa al centro della considerazione sociale come creatore di valori e di ricchezza, noi non possiamo permettere che ci sia anche un'ombra di dubbio che qualcuno pensa che ci possano essere scorciatoie sulla strada dell'impegno, della fatica, del coinvolgimento personale. Quindi è un tema che ci tocca molto. Naturalmente dobbiamo unire questi principi che dicevo con ovviamente una presunzione di innocenza. Certo è che l'attenzione anche ai fatti che riguardano la mancanza di denunce sono fatti che noi consideriamo comunque gravi, su cui non facciamo alzate di spalle, vabbè, ma insomma è spiegabile. Nulla in questo campo è né spiegabile né giustificabile. Come da Confindustria Sicilia è partito, diciamo, un vento nuovo con tutte le iniziative che hanno portato al codice etico, che hanno portato poi alle posizioni anche molto, molto forte nei confronti di quelle posizioni grigie di vicinanza nel Mezzogiorno con la malavita. Allo stesso modo, appunto, lei dice, noi stiamo dando un segnale molto forte anche qui in Lombardia. Secondo lei, Presidente, il problema potrebbe essere, diciamo, più complicato proprio perché più sottile qui da noi in Lombardia, cioè il discorso del silenzio, della mancanza di denuncia? Teoricamente il rischio c'è. Lei ha fatto bene a ricordare come ci siamo connessi a un disegno che è partito dalle migliori forze imprenditoriali della Sicilia e del Mezzogiorno per dire: guardate che il problema non pensiamo appunto che sia degli altri, è anche un problema nostro. Sarebbe stato un problema nostro anche se fosse, diciamo, localizzato in altre regioni. Non è così, perché peraltro l'evidenza è che dove c'è più business è chiaro che poi capitali magari di natura illecita possano pensare di essere valorizzati. Quindi so che è un fronte di impegno assolutamente prioritario, viene prima degli altri, quindi se ha forme sottili dobbiamo stare ancora più attenti, se ha forme più palesi dobbiamo non alzare le spalle e non pensare appunto che il silenzio sia meno grave delle cose roboanti. Su queste tematiche noi stiamo molto attenti, perché insomma è la credibilità del sistema delle imprese, in ultima istanza anche di un sistema di libertà. Quindi stiamo parlando di cose molto, molto serie. Assolutamente sì. E in riferimento a quanto lei mi preannunciava poco fa, ad un vostro progetto per l'utilizzo di beni confiscati alla mafia, mi fa capire qualcosa in più? Su questo tema noi siamo stati sensibilizzati molto dal ministro Maroni. Finché lei sequestra un bene fisico, un immobile, e la legge ovviamente prescrive che ci siano ci sia la possibilità magari di trasformare un'attività anche simbolicamente molto visibile, molto utile, ma insomma un immobile è più facile da gestire di un'impresa. Il rischio è che quando si sequestrano imprese, queste imprese poi alla fine vengano liquidate e quindi magari chi resta senza lavoro ha addirittura un atteggiamento, come dire, negativo nei confronti dell'intervento contro la criminalità, perché magari ha perso il posto di lavoro. Quello che sta nascendo, e lo fermo nascere anche qua a Milano, è una messa a disposizione di capacità manageriali e imprenditive per gestire imprese, non immobili, che quello è più facile, sequestrate la criminalità organizzata. Non possiamo permetterci di perdere una battaglia anche nei confronti del sistema delle imprese, che magari c'è un'impresa che cessa di esistere solo perché è stata sequestrata. Abbiamo un progetto che ormai è in fase di lancio di formazione particolare per la gestione di imprese di questo tipo. Quindi mi sembra di capire che è un progetto con il Ministero dell'Interno anche. Diciamo che l'input è venuto, è condiviso, l'input è venuto dal Ministero dell'Interno, ha trovato un terreno molto favorevole e cerchiamo di svilupparlo molto rapidamente. Ci sono delle scadenze, delle date possibili? Ma io spero che nelle prossime settimane noi faremo partire questo progetto, quindi è proprio in rampa di lancio. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare questa puntata di Storiacce sul sito radio24.it e da lì accedere anche al nostro blog. Ciao, a sabato!